Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto, un friscaletto e tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un saxofona, e come si suona un saxofona, tu tu tu tu un saxofona. Un friscaletto e tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un mandolino, e come si suona un mandolino, a pling un mandolin, tu tu tu tu un saxofona. Un friscaletto e tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un violino, e come si suona un violino, a zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu un saxofona, un friscaletto e tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona la trombetta, ma come si suona la trombetta, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu un saxofona, un friscaletto e tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona la trombona, ma come si suona la trombona, affuma fuma la trombona, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu un saxofona, un friscaletto e tipiti tipiti ta. Tipiti tipiti tipiti tipiti ta.